Il voto in Abruzzo dimostra che Di Pietro è sulla buona strada per fagocitare il Partito Democratico, quantomeno per apparire l'autentico leader del centro-sinistra. Ma è anche vero che negli ultimi giorni Veltroni sembra correre ai ripari. L'iniziativa di chiedere con insistenza un negoziato sulla riforma della giustizia rivela forse la volontà di prendere le distanze dallo scomodo alleato e di cercare qualche sponda nella maggioranza. Anche l'improvvisa, benché cauta, apertura all'iniziativa del ministro Brunetta, che vorrebbe mandare le donne in pensione a 65 anni, fa pensare. Forse è in atto un primo mutamento di linea in risposta all'esigenza di uscire dagli schemi della propaganda per entrare in quelli della politica. Se così fosse, se cioè non si trattasse solo di un mezzo per guadagnare tempo, lo scenario potrebbe cambiare. Ma è presto per dirlo, Di Pietro ha gli strumenti per impedire qualsiasi convergenza sulla giustizia, a meno che il PD non si rivelasse tenace e determinato. Eppure Veltroni avrebbe tutto l'interesse ad andare avanti, se non altro perché alle sue spalle c'è il vuoto. È l'ultima occasione probabilmente che gli si presenta per scegliere una linea realistica.